perdoni. Regalate i perdoni. Premiate li per avermi derubato. Amate li per avermi schiacciato. Siete diventati finalmente cristiani. Pugnete la tragua già a milioni di schiatti. Cadete in ginocchio e sperate per domani. La vera giustizia per tutti arriverà. La vera giustizia per tutti arriverà. Rinnoci la tanto. È questione di tempo. Leggi tutto. Preparatevi a ripeto ed è scattato. È questione di tempo. Leggi tutto. Preparatevi all'inferno. Un angolo di bombe, sale la città.